ognuno di noi è vivere per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, e se noi moriamo, moriamo per il Signore, sia che viviamo.